punto e a capo. Una settimana di attualità. Buongiorno, buon sabato da Anna Migliorati. E sì, prima settimana del 2011 già archiviata. Punto e capo, siamo già pronti a cominciarne un'altra. Ma prima, anche quest'anno, prima di chiuderla, torniamo a raccontarvela questa settimana per non perdere il filo. E cominciamo da quello che è stato il fatto più drammatico dei giorni passati. Ieri mattina abbiamo appreso con dolore la notizia del grave attentato contro la comunità cristiana copta compiuta da Alessandria d'Egitto. Questo vile gesto di morte per costringerli ad andarsene offende Dio e l'umanità intera. Sono le parole di Papa Benedetto XVI dopo l'attentato alla chiesa copta che ad Alessandria d'Egitto ha chiuso l'anno passato facendo 23 morti, attacco attribuito ad Al-Qaeda. Rispondere con la pace agli attacchi sono state le parole del pontefice, ma si sono temuti per tutta la settimana altri attacchi in occasione del Natale ortodosso. Attentati che fortunatamente non ci sono stati, ma la tensione resta alta. E per tutta la settimana si è discusso dello scontro tra religioni e tra due mondi. Paola Anania ha intervistato il leader dei copti in Italia, Monsignor Barnaba El Soriani. Sul sito del Mujahideen hanno scritto un'altra minaccia nuova per la chiesa copta, sia in Egitto sia dall'estero. Vuol dire che possono fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, perché lei le immagini, quello che è successo il venerdì sera, la domenica, la presenza dei fedeli in chiesa era stata 10%. Domenica scorsa? Certo. Hanno paura di attentati? È normale, perché vedi, quello che è successo ha fatto paura a tutti. Dicono, guarda, non si sa quale chiesa, dove fanno, che cosa fanno, capito? Non si sa. Questa è una ideologia islamica per svuotare tutto il Medio Oriente. Il tipo da Iraq erano nel tempo di Saddam il milione cristiano. Adesso quanti sono rimasti? 130.000. Hanno toccato l'Iraq, adesso Libano, Egitto, una catena che gira intorno da questa faccenda. Vogliono svuotare l'Oriente dai cristiani. I ministri degli esteri europei ieri hanno chiesto che il tema della libertà religiosa e la persecuzione dei cristiani sia dibattuta nella prossima riunione del 31 gennaio a Bruxelles. Della tensione religiosa si occupa anche l'ex premier Romano Prodi, che dal 2008 è alla guida della Commissione ONU per la pace in Africa. Lo abbiamo intervistato questa settimana. Paolo Piacenza gli ha chiesto innanzitutto un giudizio sugli episodi di violenza dall'Egitto alla Nigeria. Gravissimi in se stessi, ma gravissimi ancora di più perché rappresentano un'onda di un mare in tempesta. Cioè, stiamo attenti che il problema della persecuzione delle minoranze, soprattutto cristiane, ma in genere delle minoranze religiose, è un problema che tocca tantissimi paesi, va dalle Filippine alla Nigeria, all'Egitto, pensiamo ai problemi e alle tensioni che ci sono anche nelle zone del Medio Oriente, è un problema che tocca la maggior parte del mondo non solo islamico ma anche del mondo asiatico e quindi bisogna che su questo proprio una serie di saggi prendano posizioni ben precise perché sia garantita la libertà religiosa in tutto il mondo, nell'interesse tra l'altro stesso dell'equilibrio dei paesi in cui queste tragedie avvengono. Punto e a capo. Intanto questa settimana Bianco e Nero noi vi abbiamo raccontato anche un'altra vicenda, quella della moschea che nascerà a Torino. Dopo anni di discussione il comune ha dato il via libera all'edificazione del luogo di culto che potrà ospitare fino a 700 fedeli. Da un lato c'è chi considera l'edificazione di luoghi di culto per i musulmani come un atto di civiltà, un'occasione di dialogo. Dall'altro chi al contrario li vede come focolai di terrorismo. Nel nostro sondaggio questa settimana avete risposto così, occasione di dialogo 31% dei nostri ascoltatori, focolai di terrorismo 69%. Al nostro microfono, al microfono di Laura Bettini, Ilda Curti, assessore all'integrazione a Torino. Il centro islamico di cui stiamo parlando esiste a Torino da una ventina d'anni. È collocato a Porta Palazzo, in un quartiere a alta densità migratoria, in un basso fabbricato in mezzo a un cortile di 80 metri quadri e la comunità che fa riferimento a questo centro islamico è circa di 500-600 fedeli. Quindi già esiste. E quindi si tratta di ristrutturare, non di edificare. 2 anni e mezzo fa, esatto, la comunità, assumendosi una responsabilità, perché quello è un luogo promiscuo, poco dignitoso, dentro un cortile, 700 persone in 80 metri quadri, come si può immaginare, fanno fatica a starci, ha deciso di intraprendere una strada nel rispetto della legge, della legalità, di trasparenza e di trasferimento, quindi in un edificio privato che verrà ristrutturato con fondi che sono stati messi a disposizione dal governo del Marocco. Io credo che sia più conveniente avere luoghi trasparenti che hanno rapporti e relazioni con le istituzioni tutte, piuttosto che scantinati, garage o luoghi un po' più opachi dove in realtà il controllo non c'è. Punto e a capo. Che Cesare Battisti è un criminale, ha ucciso 2 persone, è mandante di altri 2 omicidi, è fuggito, è evaso da un carcere mentre è in fase di processo, deve scontare la sua pena. Così le parole di Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso a Milano da Cesare Battisti. È stata la settimana delle proteste contro la mancata estradizione dal Brasile del terrorista italiano. Ci sono stati sit-in e manifestazioni in diverse città d'Italia. Alberto Torregiani ha incontrato anche il premier Berlusconi. Si sono mossi gli avvocati italiani presentando ricorso. La Suprema Corte brasiliana ha fatto sapere che il caso sarà nuovamente esaminato. Ma c'è stata anche un'altra protagonista in questa vicenda. Questa settimana. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. È stata Carla Bruni, premier Dam, moglie del presidente francese Sarkozy. Carla Bruni ha detto di non essere intervenuta a favore del terrorista italiano, suscitando però le ire di Bruno Berardi, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime. Ai nostri microfoni, risentiamolo con Giuseppe Cruciani alla Zanzara. Prima di tutto mi sono portato le fotografie. Di chi? Allora, me le sono... No, le sue. No, le fotografie dei poliziotti morti. Ah, beh, certo. Per mano della Petrella. Sì. E delle persone che ha ammazzato Battisti. Sì. Perché sapevo che Battisti stava ancora da quelle parti lì, almeno pensavo. Lei insisteva, jamais, tutte queste cose qui. Jamais su che? Che io non c'entro niente, all'inizio ho detto così. Scusi un attimo, Berardi, ma parlava in francese o in italiano? Ma è metà francese, metà italiano. Che una sciccheria, no? Una sciccheria enorme. È una sciccheria. Io di controbalzo, anche io so parlare un po' francese, parlavo un po' francese e un po' italiano pure io. Così proprio, si è misurato proprio sullo stesso piano. Certo, per far vedere, insomma, che sono proprio terra-terra. Com'è che si dice, allora, che ne so, Battisti ha ucciso 4 persone, come si dice in francese? Berardi, mi ha fatto visitare il giardino d'inverno, dice, guardi signor Berardi, noi abbiamo il giardino d'inverno, e lì io ho cominciato, insomma, a nervosirmi, che lei continuava a dire che non era stata lei. Poi alla fine io gli ho detto, guarda, questo mio amico, dice, ma vorrei sapere il nome di questa persona. Io ho detto, io non glielo dico, ma mi ha detto che lei davanti al presidente Lula si è espressa con queste testuali parole, che di intervenire a favore di queste 2 persone perché sono perseguitate dalla giustizia italiana ingiustamente. Queste sono le parole. Cioè le parole che mi ha detto questo qua. Che Carla Bruni avrebbe detto a Lula è: lei deve intervenire perché c'è Battisti che viene perseguitato dalla giustizia italiana. È così? Esatto. Vabbè, allora lei mi ha detto, appunto, dopo mie insistenze, sì, alla fine ha detto, guardi, così invadente, perché mi ha chiamato pure invadente, pure, che in effetti io l'ho fatto perché sono sicura che Battisti è innocente. anche. Punto e a capo. E siamo così alle vicende politiche della settimana. 7 giorni ancora di vacanza, ma che non hanno fatto mancare un serrato confronto tra Silvio Berlusconi e la Lega. Martedì è stata la sera della tradizionale cena degli ossi tra Tremonti e il Carroccio. Si è detto tutto risolto. 2 telefonate e una cena. La giornata politica oscilla tra questi 3 momenti. Protagonisti il premier Silvio Berlusconi, il leader leghista Umberto Bossi e il ministro dell'economia Giulio Tremonti. La prima telefonata è quella che Berlusconi fa a Studio Aperto su Italia 1 per dire che le elezioni anticipate farebbero male al paese, che il suo governo riuscirà ad arrivare a fine legislatura e che non esiste alcuna frizione con gli alleati. Chiacchiere al vento, dice il premier, facendo riferimento tanto ai presunti dissidi quanto probabilmente alle ipotesi di una Lega che vorrebbe le urne per poi portare Tremonti a Palazzo Chigi. Forse anche di questo si è parlato ieri a Calalzo nel Bellunese, nella tradizionale cena tra lo Stato Maggiore e e il ministro dell'economia. Già a inizio serata il clima appariva più disteso. Prima di sedersi a tavola il leader leghista commenta: Berlusconi dice di avere i numeri per approvare il federalismo, bene, la garanzia è lui e non dice mai balle. Durante la cena ecco la seconda telefonata della giornata. Ancora una volta Silvio Berlusconi, ma in questo caso la telefonata è privata. Per fare gli auguri e porgere i suoi saluti, riferisce da Calalzo il ministro Calderoli. Paola Nania, Radio 24, sulle 24 ore. Così martedì sera, mercoledì si è scatenata la bufera con la Lega a premere sul federalismo e Berlusconi a rilanciare altri temi. Il federalismo è in cima ai pensieri di Umberto Bossi, secondo il quale tra il 17 e il 23 gennaio deve passare tassativamente l'ultimo decreto attuativo nella commissione bicamerale. Quindi, se non passa quella cosa lì, spiega, non possiamo portare il federalismo in Consiglio dei Ministri. Io sono convinto che passi. Inoltre il leader del Carroccio difende il collega Sandro Bondi in vista del voto sulla mozione di sfiducia previsto per la settimana prossima. La cosa è un po' vergognosa, sostiene Bossi. Se Pompei non sta in piedi, Bondi cosa c'entra? Invece, riguardo all'allargamento della maggioranza, il ministro dice che i numeri di Berlusconi stanno crescendo e chiude all'UDC. Penso che è un po' come partita, mi pare un po' la palude romana. Con la continuazione della palude romana. Infine le manifestazioni per il 150° dell'Unità Nazionale. L'Italia è divisa in due, sostiene il senatore. Chi sente che è una cosa positiva la festeggia, gli altri no. L'unico federalista, è il parere di Bossi, era il buon Cavour. L'hanno fatto fuori e il re non è andato neppure al funerale. Paolo Panceri, Radio 24, il Sole 24 Ore. Si saranno pure imborghesiti, avranno pure cambiato nome, ma sono sempre loro, sempre gli stessi, i comunisti. Torna sul suo bersaglio preferito il premier in collegamento telefonico con Signorini nella trasmissione Calispera. E lo spunto è una foto di D'Alema immortalato in vacanza a San Moritz con moglie e golf di Kashmir. Ma non è un tessuto pregiato, dice Berlusconi, né il pasteggiare a caviale o a champagne o il frequentare salotti chic che può cambiare il cervello e il cuore della gente. Una volta andavano nelle case del popolo, adesso frequentano i salotti più chic, ma non hanno perso il vecchio vito di mistificare la realtà e di demonizzare l'avversario, di insultarlo, di cannoniarlo, di cercare di farlo fuori, come fanno con me, utilizzando i magistrati a loro vicini per arrivare al potere. Comunisti in Kashmir, dunque, che non hanno fatto ancora i conti con la loro orrenda ideologia, e nemmeno una bella donna potrebbe far cambiare idea al premier. Mai avuto flirt con donne di sinistra, giura infatti Berlusconi a Signorini, e Veronica Lario, che è diventata un'icona della sinistra, incalza il conduttore. Su questo mi astengo, svicola abilmente il cavaliere. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Ieri lo avete sentito nei nostri notiziari, si sono aperte le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia con l'appello del capo dello Stato Napolitano per il rispetto del tricolore. Non celebrare l'unità, ha detto Napolitano, non giova al federalismo. Il graffio di Dario Ceccarelli. Tremonti dice che la crisi no, non è finita. Berlusconi invece dice che la crisi non c'è mai stata. Forse alla cena degli ossi l'unica cosa che è finita davvero è la grappa. E noi che figli siamo, beviam, beviam, beviamo. E noi che figli siamo, beviam, beviam, beviam. Del bianco moscatello, del nero marzenì. Se ne avessi un botticello ne vorrei vederla qui. Se ne avessi un botticello ne vorrei vederla qui. Punto e a capo. La crisi non è finita, sentivamo anche dal graffio, è stato il monito del ministro dell'economia Giulio Tremonti questa settimana. Molti dati arrivati a fotografare quanto sta accadendo. Uno su tutti, nel 2011 400.000 lavoratori oggi intrappolati nella cassa integrazione rischiano di divenire disoccupati, andando ad ingrossare l'esercito degli attuali 2 milioni di senza lavoro. Per la maggior parte sono lavoratori delle aziende entrate in crisi nel 2008 con lo scoppio della recessione. La stima è del segretario generale aggiunto della CISL, Giorgio Santini, che ha commentato il dato a Focus Economia. Se non si accentuano gli investimenti, se non migliorano le politiche di reimpiego, il rischio concreto è che questa cassa integrazione, che giustamente abbiamo chiesto e il governo ha prorogato anche per il 2011, compresa la straordinaria e la deroga, rischia di piano piano diventare disoccupazione. Teniamo conto che ai dati conosciuti si affianca anche questo dato oggettivamente inquietante della disoccupazione giovanile al 25%, che è il dato peggiore in Europa, che segna proprio la difficoltà sulle politiche del lavoro, sulle politiche delle assunzioni. Quindi il tema del 2011 deve essere questo: fare tutto quello che è necessario. Lei sa che noi siamo sostenitori dell'accordo di Mirafiori, cioè investimenti con condizioni anche, diciamo, di responsabilità, perché purché si riprenda seriamente a lavorare e si esca da questi ammortizzatori che sono appunto necessari, ma prolungati nel tempo diventano poi preludio alla disoccupazione. Prima settimana dell'anno, prima settimana di rincari, aumenti fino al 25% per i treni, da record i prezzi delle materie prime questa settimana, da record il prezzo della benzina. Il petrolio va giù e la benzina sfiora 1,50 euro al litro. Uno scandalo, tuonano le associazioni dei consumatori, una porcheria, scrivono sui blog gli automobilisti, salvo poi non far caso ai prezzi esposti al distributore e ritrovarsi a fare il pieno dove capita. Legittime rivendicazioni e un po' di autocritica. L'anno appena passato ci lascia in regalo 18 centesimi di aumento sul prezzo della benzina. Non poco, vero, ma negli altri paesi i prezzi non sono così diversi. Fatta eccezione per la Spagna, messa meglio perché l'imposizione fiscale è minore, in Francia, Germania e Inghilterra alla pompa i dolori sono gli stessi. Il fisco si mangia all'incirca 60 centesimi ovunque. Da noi compaiono le solite voci che suscitano rabbia e ilarità, come i terremoti dal Belice all'Irpinia, la guerra in Abissinia, il disastro del Vajont. Poi va aggiunta l'IVA. Infine, dal 99 le regioni possono tassare i carburanti. Qualche differenza c'è sul prezzo industriale, ma si tratta solo di pochi centesimi. Qui rientra il costo del petrolio, la raffinazione, i costi di stoccaggio e distribuzione, i margini. Su questo fronte mostriamo il fianco a carenze che alla fine si riversano sull'ultimo anello della catena. Resta il fatto che in Italia ci sono 600 macchine ogni 1000 abitanti, contro una media europea di 463. La metà delle volte che ci mettiamo al volante lo facciamo per tratti brevi. Obiezione: all'estero i mezzi pubblici funzionano e le piste ciclabili pure. Vero. Allora chiediamoci quali sono le nostre priorità. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. È stata la settimana dei funerali del dolore per la morte in Afghanistan del caporale Matteo Miotto, ma è stata anche la settimana delle polemiche su come sia caduto. Il primo a sollevare dubbi era stato il padre. Sappiamo ancora in modo abbastanza sporadico quello che è successo e sembra che non sia tutto chiaro neanche. Prima la versione del cecchino isolato, poi il ministro della difesa Ignazio La Russa è volato a Herat in Afghanistan, da dove ha raccontato di un attacco ai nostri militari nel quale è caduto Matteo Miotto. Questa, dicevamo, è stata comunque la settimana dei funerali. La chiesa è gremita, militari, amici, familiari, autorità, tra cui il premier Berlusconi e tanta gente comune. Le note del silenzio, gli applausi, la commozione, il dolore, ma sempre composto. Il ricordo di Matteo, nelle parole del cappellano militare Vincenzo Pelvi. Il suo è un sacrificio estremo, offerto per il dono della pace, dice, che possa essere d'invito a non cedere allo sconforto e alla rassegnazione di fronte ai conflitti che mettono a rischio il futuro dei popoli. Cari militari, il nostro paese vi ringrazia uno per uno. È il mondo intero che ha bisogno di persone come voi. Siamo il primo mezzo della colonna, ogni metro potrebbe essere l'ultimo, ma non ci pensi. Così scriveva Matteo poco tempo prima di morire. Matteo, che a soli 24 anni aveva già indicato il luogo dove avrebbe voluto la sepoltura, nel cimitero di Tien, area riservata ai caduti di guerra. Qui oggi sarà dunque tumulato, dopo il funerale in forma privata che si terrà questa mattina in Duomo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. Tutte le parti in causa debbono riconoscere l'essenzialità di questo impegno ad aumentare la produttività del lavoro a fini di competitività internazionale della nostra economia. È stato un appello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ve l'abbiamo fatto risentire, ad animare la settimana nella vicenda Fiat. Napolitano ha chiesto di rivedere il diritto di rappresentanza, tutta una materia, ha detto, che ormai va affrontata, aggiungendo: mi auguro che sulle relazioni industriali si trovi un modulo più costruttivo di discorso. Riepilogando la settimana, comunque ad un punto fermo si è arrivati, è stata fissata la data del referendum tra i lavoratori dello stabilimento torinese. Si voterà giovedì e venerdì prossimi. Se il referendum si concluderà con la vittoria dei sì, la FIOM non apporrà nessuna firma tecnica all'accordo di Mirafiori. Non aderirà quindi neanche solo formalmente all'intesa pur di rimanere nello stabilimento torinese. Landini risponde no alle richieste del segretario generale della CGIL Camusso. La posizione della FIOM è rimasta quella emersa nella riunione del Comitato Centrale che la settimana scorsa ha proclamato lo sciopero di categoria per il 28 gennaio, come ribadisce lo stesso Landini. Noi consideriamo che il referendum che è stato indetto dalla Fiat a Mirafiori sia un referendum illegittimo. Le affermazioni fatte anche ieri da Marchionne confermano che non siamo di fronte a un voto libero. Intanto Landini ha aperto un dialogo con i partiti di opposizione. Dopo aver incassato l'appoggio del leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro, ma il capogruppo alla Camera Donati dissente, lunedì vedrà Bersani e successivamente parlerà con Vendola e con la Federazione della Sinistra. Nicola Filippone, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A chiedere trasparenza al voto a Mirafiori è stato Eros Panicali, segretario nazionale UIL. Noi pensiamo a un garante, ancora non abbiamo identificato, a un garante nel senso per la trasparenza dell'esito del referendum, e quindi stiamo pensando a qualcosa di istituzionale, però ancora non abbiamo definito. Potrebbe essere appunto il comune, potrebbe essere la provincia, potrebbe essere il prefetto, per dare trasparenza e quindi incontestabilità del risultato. La FIOM purtroppo si è considerata fuori gioco dal mese di marzo sulla partita Fiat, quindi non è di oggi. Poi ha cambiato le sue argomentazioni mano a mano che si andava avanti. Era fuori gioco perché non condivide il progetto Fabbrica Italia. E quindi che cosa dire? Se col tempo torneranno sui loro passi, possono sempre rientrare, però accettando le condizioni di un progetto importante come quello di Fabbrica Italia. E se la settimana si chiude in attesa del referendum a Mirafiori, si era aperta invece con il debutto in borsa dei due nuovi titoli del Lingotto. Chi voleva i fuochi d'artificio è stato accontentato. Prima seduta dell'anno di Piazza Affari, ad animarla la quotazione della doppia Fiat dopo lo scorporo dell'auto dalle altre attività del Lingotto. Esordio complicatissimo. Il calcolo del valore dei titoli delle due società ha provocato il caos, al punto da non riuscire ad esprimere un prezzo di partenza e la variazione percentuale che questi stavano registrando sul mercato. Situazione che di conseguenza ha reso impossibile individuare la variazione dell'indice complessivo di Piazza Affari per tutta la mattinata. Non potendo dividere esattamente in due il valore delle vecchie azioni, ci si è affidati al mercato. Inizialmente si è preso a riferimento il prezzo segnato dai nuovi titoli ad avvio seduta e questi hanno virato a ribasso. Poi Borsa Italiana ha diffuso ipotetici prezzi di partenza segnati in via teorica venerdì scorso, anche se le due società non esistevano. Con questa base l'esordio ha cambiato completamente faccia. Rialzo di 4 punti per la SPA, rialzo di oltre 3 punti per la società non auto. Se venerdì scorso Fiat valeva 15,43 €, sommando i valori dei nuovi titoli, Fiat vecchio formato quoterebbe intorno ai 16 euro. Troppa confusione, visto che l'operazione era annunciata da mesi, soprattutto tra i piccoli azionisti spaesati e disarmati verso queste incomprensibili dinamiche. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. A Italia in controluce abbiamo inaugurato con il nuovo anno un viaggio nelle città che nel 2011 andranno al voto amministrativo e siamo andati proprio anche a Torino questa settimana, dove è cruciale il ruolo della Fiat. Paolo Piacenza ha sentito il sociologo Bruno Manghi, già direttore del Centro Studi Nazionale della CISL e membro della Compagnia di San Paolo. Per quanto si è ridotto il peso della vecchia ditta, diciamo il saper fare, organizzare le conoscenze, vengono di lì, anche se si applicano altrove. Quindi la manifattura, sia pure moderna, resta tra le opzioni che la città ha, mentre tarda, come abbiamo visto, il terziario a assumere una dimensione competitiva rispetto al manifatturiero, anche se noi sappiamo che sarà il terziario già oggi ad assorbire, diciamo, occupazioni, competenze, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il tema. Ecco, ma l'idea della città della conoscenza che era emersa un po' di tempo fa, anche in relazione alla, come dire, a un modo per tradurre l'opportunità olimpica in una prospettiva, no? Anche la legata di cosa? Perché società della conoscenza non è Heidelberg. Città della conoscenza legata però ai saperi organizzativo, eccetera, che è tecnico-scientifico, che devono trasferirsi su altri settori. Cioè, il successo delle Olimpiadi era stato in qualche misura la capacità che aveva dimostrato la città e anche il suo volontariato, devo dire, oltre che i dirigenti, a portare su un evento squisitamente terziario quelle modalità organizzative di precisione, eccetera, eccetera, che aveva appreso nel percorso manifatturiero. Ecco. Con Punti a Capo continuiamo a raccontarvi questa prima settimana del 2011 che si va ormai concludendo. E allora andiamo ora invece in Sicilia, dove la bufera è stata per la vicenda precari. Avanti nonostante le critiche, l'assessore al lavoro della regione siciliana Andrea Piraino non intende ritirare il bando per 8.400 stagisti pubblicato l'ultimo giorno del 2010. Il provvedimento, a sostegno del quale la regione ha stanziato 6 milioni e mezzo di euro, prevede l'assunzione di disoccupati che verranno pagati 500 euro al mese per un anno. Una misura che non contribuisce allo sviluppo, l'ha definita Confindustria Sicilia, attraverso le parole del presidente Ivan Lobello, al quale hanno fatto eco sindacati e associazioni concordi nel definire questo provvedimento come mezzo capace di creare soltanto un nuovo precariato in una terra che già fa fatica ad assorbire il bacino di precari che si è andato ingrossando negli anni, spesso in coincidenza con periodi elettorali. Ma Piraino non intende fare passi indietro. Le critiche sono strumentali, dice, e il bando non verrà ritirato. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in Sicilia restiamo, perché questa settimana è stata anche l'occasione per Confindustria per fare il punto sulla lotta alla mafia. Si fa più stretta la collaborazione tra Confindustria Sicilia e la Questura di Palermo. Stamattina è stato firmato dal questore Nicola Zito e dal leader degli imprenditori siciliani Ivan Lobello un protocollo d'intesa che rappresenta un fatto unico nel panorama italiano. Sulla base del protocollo, di cui è stato promotore il delegato alla legalità di Confindustria Nazionale Antonello Montante, gli imprenditori siciliani si impegnano a finanziare con 350.000 euro il completamento dei lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa Elisabetta, locale attiguo alla questura che ospiterà in futuro anche la sezione di criminalità organizzata, dice il questore Nicola Zito. Con questa firma diamo una svolta decisiva, concreta, visibile a tutta la comunità siciliana e non solo, ritengo, caro Presidente, a livello nazionale, con cui di nuovo da Palermo partono dei segnali potenti di novità. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Punto e a capo. Una settimana cruciale anche oltreoceano. Negli Stati Uniti si è insediato questa settimana il nuovo congresso che sfiderà le politiche di Obama. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. È con il giuramento alla bandiera, stelle e strisce e alla Repubblica che si è aperta la cerimonia di insediamento del 112° congresso degli Stati Uniti, a due mesi di distanza dalle elezioni di midterm, che hanno visto i repubblicani strappare la Camera dei rappresentanti ai democratici. Di fatto, una situazione di stallo legislativo, visto che per essere approvata ogni legge deve essere votata sia dalla Camera, ora in mano al Grand Old Party, sia dal Senato, ancora controllato dai democratici per una manciata di voti. Dopo il giuramento, è stata la volta del passaggio di consegne tra l'ormai ex speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, e il suo successore. The Honorable John A. Boehner is duly elected Speaker of the House of Representatives. Il repubblicano John Boehner avrà il compito di guidare l'agguerrita opposizione Obama e le premesse sembrano esserci tutte. Nei giorni scorsi Boehner aveva annunciato di voler bloccare l'appena approvata riforma sanitaria e di voler creare commissioni d'inchiesta sull'operato dell'amministrazione presidenziale. Cominceremo, ha detto nel suo discorso di insediamento, col tagliare il budget del Congresso. Giovanni Stinco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La prima conseguenza è già arrivata con il primo voto che ha già rovesciato una parte della riforma sanitaria voluta dal presidente Barack Obama. Presidente Obama che intanto ha cominciato questa settimana anche a rinnovare il suo staff. Un banchiere come capo dello staff alla Casa Bianca, Barack Obama sceglie William Daley, 62 anni, attualmente responsabile delle operazioni di JP Morgan Chase nel Midwest americano, per prendere il posto che fu di Rahm Emanuel, già a Chicago per correre alla carica di sindaco della città simbolo dell'Illinois. Daley va ad occupare una casella molto importante del risico del rinnovo della squadra presidenziale dopo le elezioni di metà mandato. Già segretario al commercio, ha diretto la campagna di Al Gore nel 2000. Resta quindi significativa la presenza dell'elite politica di Chicago nel team presidenziale. William è fratello dell'attuale sindaco, nonché figlio di Richard, che per 20 anni occupò la carica di principale amministratore cittadino. Dinastia potente, quella dei Daley, forse fin troppo e per questo molto chiacchierata. All'epoca dell'elezione di Obama garantirono all'allora candidato Barack il loro appoggio solo quando si capì che lo sconosciuto outsider poteva davvero arrivare alla Casa Bianca. Ora il matrimonio è sancito. Presidente, ti assicuro che questa squadra non deluderà né te né la nazione, ha detto Daley subito dopo la nomina. Con lui i legami con il mondo degli affari e della finanza, dopo le fasi turbolente della crisi economica, dovrebbero essere riannodati. Sergio Nava, Radio 24 e Sole 24 Ore. Altri rinnovamenti arriveranno probabilmente anche nei prossimi giorni, altri ci sono poi stati, l'avete sentito, nei nostri giornali radio. Punto e a capo. Si va verso la paralisi dei tribunali, è stato l'allarme lanciato in settimana dall'Associazione Nazionale Magistrati per il blocco dal 1 gennaio dell'assistenza informatica agli uffici giudiziari. Il ministro della Giustizia Alfano ha risolto il problema con variazioni di bilancio, in attesa però che altri soldi arrivino dal Ministero dell'Economia. Il fatto è che però il problema questa settimana è emerso con forza. Luigi Biritteri, capo del Dipartimento Organizzativo Giudiziario di Via Renula, al microfono di Jacopo Matano ci ha raccontato cosa accade. È un sistema complesso perché serve circa 60.000 stazioni di lavoro, 5.000 server, 1.800 uffici dislocati in 3.000 edifici su tutto il territorio nazionale. Come mai sono stati bloccati i fondi per l'assistenza? Sono stati bloccati perché in esecuzione del nuovo sistema introdotto dalla finanziaria del 2009 non è possibile proseguire contratti pluriennali se non c'è l'intera copertura per l'annualità in corso. Esiste un rischio di paralisi del sistema? Le previsioni catastrofistiche di blocco dei tribunali, di assenza di servizio mi sembrano eccessive. Il problema che affrontiamo è un problema di considerevole gravità, ma contiamo di risolverlo nel giro davvero di poco. Come si riattiva il servizio? Il Tesoro dovrebbe fornirci le risorse aggiuntive. Il ministro invece ha dato mandato di trovare le risorse in via d'urgenza per riattivare il servizio attraverso variazioni di bilancio interne al ministero. E dove prenderete questi fondi? Stiamo facendo i conti, lavoriamo a ritmo serrato oramai da settimane su questo per cercare di recuperare le risorse da un lato senza dall'altro provocare altri contraccolpi pericolosi nel sistema giudiziario. Punto e a capo. E non possiamo non ricordare, ripercorrendo la settimana che si è appena conclusa, la vicenda di cronaca forse più drammatica in Italia: un'intera famiglia uccisa nel Pavese da una caldaia difettosa. Giravano nel cortile con il biciclettino, tutta la palazzina era appena stata ristrutturata. I sigilli intorno alla cascina, i tricicli sullo sfondo e un'unica domanda tra i vicini: il proprietario della casa sapeva dei problemi alla caldaia? In molti assicurano di sì. Questo interrogativo è tutto ciò che resta di un'intera famiglia egiziana uccisa dal monossido di carbonio. La procura di Pavia ha aperto un'inchiesta e il titolare dell'appartamento è stato indagato per omicidio colposo plurimo. Il suo nome, all'andriano, nel silenzio del lutto cittadino si mescola a rabbia e dubbi. Era davvero un tecnico quell'amico a cui Mohammed aveva fatto controllare l'impianto? Secondo la legge la manutenzione ordinaria spetta agli inquilini, ma troppo spesso, per risparmiare, ammette un altro egiziano muratore, non si rispettano le norme. Dice che è stato stravisionata questa caldaia poco tempo fa. Per me il nostro comune nazionale non è così esperto, la maggioranza delle case che è affittata alle straniere non sono a norma. Anche per questo, davanti ai quattro corpi è esplosa la rabbia della comunità egiziana e a loro è andato nell'omelia dell'Epifania il pensiero del parroco Don Armando. Nelle responsabilità di tutti cercare davvero di dare sicurezza per quanto riguarda una vita dignitosa anche nei nostri ambienti. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Punto e a capo. Stivali di Pucci! Li ho visti prima io, quindi sono miei. Ci sono venuta dal New Jack, Simone! Era lì tu! Guarda, c'è una svendita di Burberry! Bugiata! Il 72% degli italiani da giovedì, il giorno della Befana, si è tuffato nei saldi e magari molti di voi lo faranno anche oggi. È ormai un rito della prima settimana dell'anno che si sta concludendo e che vi stiamo raccontando. Il dato è di un'indagine Confcommercio secondo cui cresce la quota di consumatori che approfittano degli acquisti a prezzi scontati. La maggior parte dei consumatori, il 56,6%, spenderà una cifra attorno ai 200 euro. E il dibattito allora negli ultimi 7 giorni è stato perché non fare saldi tutto l'anno. Ai consumatori piacerebbe, secondo il nostro sondaggio. Avete risposto sì per il 70% in uno dei nostri sondaggi della settimana. A 24 Mattino con Laura Bettini ne abbiamo parlato con Mauro Bussoni, vice direttore generale Confesercenti. Il fatto di poter praticare una politica dei prezzi, delle vendite, quindi una politica commerciale libera, fa parte ovviamente dell'attività, quindi i singoli imprenditori stabiliscono il margine di guadagno, stabiliscono quando un prodotto comunque può essere venduto ad un prezzo più basso rispetto a quello originariamente previsto. I saldi rappresentano un momento particolare, un'offerta particolare nei confronti dei consumatori e anche qui in genere si pensa al settore dell'abbigliamento come settore principe. I saldi rappresentano per gli imprenditori del commercio un momento importante, in particolare quelli invernali, noi stimiamo possano rappresentare circa il 20-30% del volume d'affari di ogni singolo imprenditore. È ovvio che se si dovesse andare ad una liberalizzazione non ci sarebbero più i saldi, sparirebbero, quindi ogni imprenditore farebbe una propria politica, non ci sarebbe più questo effetto annuncio che invece è un effetto importante. È un'opportunità per i consumatori perché hanno la possibilità di raffrontare più offerte, hanno la possibilità di confrontare le diverse opportunità che vengono loro presentate, dà la possibilità anche ai piccoli imprenditori che non avrebbero le condizioni di poter fare una campagna pubblicitaria e promozionale adeguata rispetto alle grandi catene di entrare in gioco, quindi la data unica alla quale si faceva riferimento prima è una data importante. Purtroppo, ma chi la deve decidere questa data? Se voleste mettervi d'accordo a livello nazionale. Le norme prevedono che siano le regioni a farlo. Quest'anno si è cercato un accordo fra tutte le regioni, tant'è che comunque nell'80% delle regioni italiane quest'anno i saldi parleranno il 6 di gennaio, solamente in alcune regioni sono partiti il 2 di gennaio. Credo che il prossimo anno si farà ancora meglio. Archiviamo l'argomento saldi. Quella che si sta chiudendo è stata una settimana cruciale anche per quello che è ormai uno dei simboli del web. Il 15 gennaio compirà 10 anni, nel frattempo è diventata uno dei siti web più letti al mondo, a seconda delle fonti o delle classifiche, quinta o ottava. Wikipedia è per 380 milioni di persone che la visitano ogni mese una delle principali fonti di informazione e la sua creazione di contenuti dal basso, dagli utenti della rete, è rimasta genuina seppur con qualche aggiustamento nel corso degli anni. A meno di 2 settimane dal compleanno, il fondatore Jimmy Wales può già festeggiare perché il suo obiettivo di raccogliere 16 milioni di dollari è stato raggiunto. I soldi permetteranno a Wikipedia di funzionare e soprattutto di rimanere senza pubblicità, almeno per un altro anno. Molti analisti dicono che Internet sta diventando il veicolo principale per la raccolta fondi e Wikipedia conferma il trend. 500.000 persone in 140 paesi hanno contribuito in appena 50 giorni. Ma se volete donare avete ancora tempo e, come ricorda l'associazione, l'offerta è detraibile dalle tasse. Enrico Pagliarini, Radio 24 e Le Sole 24 Ore. Punto e a capo. Anno nuovo, ma il vecchio ritorna e almeno per ora sembra vincere. Abbiamo fatto molti errori, perché abbiamo ceduto diversi canestri con seconda azione, rimbalzo in attacco, qualche entrata di più abbiamo premesso, però abbiamo fatto 98 punti, abbiamo attaccato bene, tutti hanno fatto un contributo. Per noi è una grande vittoria, una grande soddisfazione, sono molto provato forse psicologicamente, fisicamente, perché gli ultimi minuti, due minuti non passavano mai, le mie gambe non reggevano. È l'esultanza di Dan Peterson, compirà domani 75 anni. Mercoledì sera ha fatto il suo nuovo esordio nel basket, vincendo sulla panchina dell'Armani Jeans Milano. È stato il protagonista sportivo della settimana e lui stesso ha scherzato sulla sua età. Non sarei tornato per nessun'altra società, solamente Armani Jeans Olimpia Milano, solo. E per nessun altro pubblico, nessun altro. E sono nonno, sì, due volte anzi. La mia figlia ha due figli. Mi è mancato Elvis Presley per un anno e un giorno. Lui è nato 8 gennaio 35, io 9 gennaio 36. Io penso che lui sia ancora di moda, che cercherò di fare io a altre età. Il grande Confucius della Cina ha detto che l'amore della ragazza è giovane, l'ha tenuto giovane lui, ok? Ho il vantaggio di avere la pressione bassa, per questo sono stato nominato il nano ghiacciato. Non avevo. E il mio medico dice: Peterson, un punto in meno della pressione, lei è addormentato. Potevo stare lì con il telecomando in mano, cantarmi qualche canzone con la chitarra, ma ogni tanto c'è il richiamo della foresta, ok? E quindi è stato per me il richiamo della foresta. Per avere la pensione in pausa, uno deve avere 20 anni di lavoro. Io ne ho 19 perché qualcuno non ha iscritto me all'Impulse, hai capito? Quindi la prima domanda, ascolti oggi, Luca, Impulse, siamo a posto? Prima settimana di un anno nuovo, ma che guarda al passato anche a teatro, dove a Milano, mercoledì sera, 4 gennaio, è stato un ritorno sulle scene di strepitoso successo per Dario Fo e Franca Rame, che ripropongono Mistero Buffo. La prima giullarata di questa sera è quella del miracolo delle nozze di Cana, quella detta della trasformazione dell'acqua in vino. È il miracolo più gioioso e festoso di tutto il Vangelo. L'ubriaco si avvicina all'angelo e toglie una piuma, che bella piuma, boh, che leggera, te la me la fai mangiare, poi fora, d'accordo, non dico niente, fora. Dario Fo e Franca Rame sono in scena al Teatro Nuovo in Piazza San Babila a 42 anni dopo il primo debutto a Milano. Avete sentito Dario Fo sul palco? Fo, che in settimana ha commentato così: assomiglia a Mistero Buffo, l'originale. Ci sono delle cose che vengono di là, ma c'è molte cose che sono andate erano andate perdute addirittura. Abbiamo ripristinate, rimesse a posto, studiate, e saranno delle novità assolute, con tutto che hanno una nascita antica. E soprattutto l'abbiamo scelta nel rapporto straordinario con la realtà attuale, con i fatti che si susseguono uno dietro l'altro, la cronaca, insomma. Punto e a capo. Ma c'è qualcosa di vecchio che abbiamo buttato forse con l'anno che si è chiuso? Qualcosa che è sembrato questa settimana una tradizione tramontata. È stata la settimana consueta della Lotteria Italia, 5 miliardi il Montepremi assegnato a Roma, ma è sembrato un po' un mito tramontato. Quest'anno si sono venduti il 17% in meno di biglietti. Perché? Ce lo ha spiegato Alessandro Gennari di Agipro News, agenzia specializzata in giochi. Con altri giochi le vincite sono più allettanti, o comunque si ha l'immediatezza della conoscenza della vincita. L'esempio principe è il Gratta e Vinci, andando a intervistare le persone che ancora a Via del Corso a Roma hanno il botteghino che vende tutti quanti i biglietti. Loro stessi ci dicevano che i loro clienti sono quasi sempre gli stessi, che con il passare degli anni ritornano ogni volta un po' più invecchiati, magari con i bambini, per fargli prendere il biglietto fortunato. Però ecco, è il cambiamento dei gusti degli italiani. E questa settimana anche la notizia che ha creato apprensione tra i fan dei fumetti. Uno dei Fantastici Quattro morirà. Rimarranno in tre, i Fantastici Quattro sono destinati a cambiare. La Marvel, casa editrice dello storico fumetto, ha deciso di dire addio a uno di loro, pare per ragioni puramente economiche. Verrà fatto fuori il supereroe meno redditizio e che magari da morto farà vendere di più. Un po' come accadde a Superman, fatto morire sugli albi a fumetti nel 92 per rinverdire la fama del personaggio. Ma chi scomparirà fra Mr. Fantastic, la Cosa, la Torcia Umana e la Donna Invisibile? Dalla Marvel naturalmente nessuna indicazione, bisognerà aspettare il 26 gennaio con l'uscita del fumetto numero 588, che sarà in edicola avvolto in una plastica nera per aggiungere più mistero. C'è da dire che già nel passato c'erano stati degli abbandoni, ma mai definitivi. La Cosa aveva lasciato il gruppo per un periodo, per essere protagonista del comic a lui dedicato, ed era stato sostituito da She-Hulk. Appeso fra la vita e la morte per un periodo Mr. Fantastic, e stessa sorte era toccata alla moglie, la Donna Invisibile. L'unico dei quattro a non essere mai scomparso è la Torcia Umana. Che sia un presagio? Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In attesa di saperlo, aspettiamo la prossima settimana, quando torneremo anche noi a raccontarvi gli ultimi 7 giorni per non perdere il filo di quest'anno che ormai abbiamo cominciato. Per ora ci fermiamo qui, settimana numero 1 del 2011. Un saluto, un buon sabato da Anna Migliorati.